nostro paese le donne muoiano, e allora gli daremo donne morte. Dall'altra parte del vetro, qui dagli studi di Radio Blackout, ci arriva una richiesta musicale da parte di Drink and Fight. Noi li accontentiamo subito. Questa è Sinead O'Connor, Nothing Compares to You, dedicata a Drink and Fight. Thank you. 16.33 abbiamo ai nostri microfoni Giulia del Cubo di Chieri, che insomma vogliamo sentire riguardo l'iniziativa e la lotta di cui loro fanno parte, della resistenza agli sfratti nella città di Chieri, e ci va insomma anche di sentire da loro il comunicato che hanno scritto in occasione di questo 8 marzo di lotta a modo loro. Quindi le chiederemo insomma di raccontarci un pochino. Giulia, ci senti? Sì, vi sento, ciao a tutti, ciao a tutte. Niente, appunto, io faccio parte del laboratorio politico Il Cubo e da qualche mese gestiamo questo sportello che si chiama Prendo Casa qui a Chieri. Per l'8 marzo quest'anno, appunto, coincideva con il primo accesso di una famiglia, il primo accesso di sfratto per una famiglia che seguiamo ormai da qualche mese, e ci sembrava giusto proprio per questo far coincidere le due cose. Abbiamo giocato sul fatto che appunto l'imperativo maschilista recita le donne devono occuparsi della casa, e provocatoriamente abbiamo fatto questo giovedì. C'è stato un picchetto giovedì mattina sotto la palazzina sotto sfratto, eravamo in tanti e nulla, siamo però alla prassi, per prassi è stato rinviato lo sfratto all'11 aprile. E niente, ci auguriamo di essere in tante anche l'11. Ma in una città come Chieri, insomma, questa curiosità volevo chiederti, in una città sì, comunque non grande come quella di Chieri, come è stata accolta diciamo questa vostra lotta, anche sì, diciamo con il mordere della crisi? Comunque penso che in una città come quella ci si conosca, sia più facile conoscersi anche. Sì, la situazione anche a Chieri per quanto riguarda gli sfratti è grave, nel senso che ci sono più di decine e decine di famiglie che rischiano lo sfratto. Quello contro cui lottiamo non sono soltanto le istituzioni sorde a questo tipo di problemi, ma è anche una sorta di vergogna che aleggia tra le persone. Quindi quello che vogliamo creare è solidarietà, è un gruppo che porti avanti queste cose. Ci dispiace che molte di queste famiglie magari non si rivolgano a noi per paura di esporsi, per paura dei giornali, per paura che gli altri vengano a sapere dei loro problemi. Ed è anche un po' questo che ci troviamo a dover affrontare come sportello Prendo Casa. Va bene, insomma noi ti ringraziamo, ci piace molto la vostra rideclinazione delle donne devono occuparsi della casa, per questo insomma volevamo condividerla con gli ascoltatori e le ascoltatrici. Ti chiediamo appunto di aggiornarci rispetto a questo, diciamo agli accessi di questa famiglia, ma non solo, quindi alle attività dello sportello Prendo Casa di Chieri. Per questo sai che i microfoni di Radio Blackout sono sempre aperti. Sì, sicuramente, io vi ripeto ancora una volta, l'11 aprile ci sarà il secondo accesso, che come sapete è quello più definitivo, quello in cui possono intervenire le forze dell'ordine, quindi in cui è ancora più importante esserci, e nulla, quindi invito tutti e tutte a partecipare. Bene, a Chieri, in via della Resistenza 5, che è il quartiere Maddalena, un quartiere popolare di Chieri, che okay, è molto vicino a Torino. Con l'avvicinarsi della data allora sicuramente lo ripeteremo, magari appunto. Benissimo. Ti ringraziamo, grazie, Giulia. A voi. Ciao. Grazie a voi. Ciao. Ciao, buona giornata, ciao. E in questa seconda parte di trasmissione andiamo a farvi ascoltare un CD che diciamo contiene delle colonne sonore di film hard anni 70, speriamo che siano di vostro gradimento. Insomma, proseguendo un po' a proposito delle lotte che si danno sui territori, appunto ci ricolleghiamo anche alla lotta Nomus, quindi sul territorio di Niscemi, dove appunto questa settimana ci sono state delle brutali, cioè una brutale repressione contro il comitato delle mamme Nomus di Niscemi durante i consueti blocchi all'ingresso della base. Durante la mattinata, infatti, i presidianti l'accesso alla base militare hanno trovato nascosti nei mezzi militari camuffati da soldati americani e degli operai ai quali hanno impedito l'accesso all'interno del cantiere. Sono stati intensificati, diciamo, i presidi da parte dei Nomus, che appunto hanno intensificato i blocchi all'ingresso dell'area militare, determinati a non permettere il cambio della guardia ai soldati dentro la base. Quando a mezzogiorno circa la tensione è salita alle stelle, ha evidenziato ancora una volta la non estraneità dei questorini e appunto dei poliziotti agli interessi della base americana. C'è stata quindi appunto un brutale, cioè ripetute cariche contro le donne di questo comitato appunto di mamme Nomus per permettere ai mezzi americani di entrare nella base. Comunque le mamme non hanno ceduto alle pressioni, hanno opposto resistenza. Diverse donne sono finite in ospedale, noi appunto a loro va tutta la nostra solidarietà, resteremo comunque appunto sintonizzati su questo canale dei Nomus, vi aggiorneremo se ci saranno appunto nuove lotte, nuovi momenti di tensione in futuro. E collegati anche a questo 8 marzo di lotta, ne approfittiamo per ricordare i cortei 3 che si terranno in tutta Italia all'insegna di difendiamo la nostra terra, difendiamo il nostro futuro, e quindi abbiamo 16 marzo Messina, 23 marzo invece in Val di Susa, 30 marzo Niscemi. torneremo anche a darvi un aggiornamento per quello che riguarda Pisa e la lotta delle lavoratrici delle pulizie Sodexo, che questa settimana in più di 70 hanno strappato le tessere del sindacato e si sono organizzate in autonomia. E questa vicenda è stata trattata più volte dai microfoni di Interferenze e abbiamo sentito Marzia, una delle lavoratrici, probabilmente una delle più attive, anche perché lei è una RSU CGL che insomma ha subito anche delle grandi e forti pressioni da parte del sindacato, perché di fatto si è comportata come una RSU dovrebbe comportarsi, e quindi non ha chinato invece la testa di fronte alle logiche sindacali sempre troppo conniventi con le scelte padronali di questa azienda. Quella di giocare al ribasso da parte della CGL, che sicuramente non ha giovato, visto il risolversi degli eventi, visto appunto la decisione collettiva di strappare le tessere. Questo in sofferenza nei confronti del sindacato è stata sicuramente anche data dall'identificazione con il Partito Democratico, laddove quest'ultimo è visto come controparte e nemico da parte delle lavoratrici. Lavoratrici soprannominate leonesse, che ricordiamo hanno vinto la loro lotta nel mese di gennaio, ma che non hanno smesso di lottare, anzi si sono rafforzate sempre di più proprio nell'andare a criticare un sistema, quello sanitario e sociale, che proprio non va giù a loro. Questo perché insomma hanno dimostrato, sono riuscite a dimostrare che la lotta paga, sono riuscite a dimostrare che l'isolamento si poteva rompere, quindi diciamo si sono unite collettivamente in questo presidio, in questa permanente, appunto, dove hanno messo in comune anche le varie funzioni riproduttive, perché comunque ci rendiamo conto che non è facile per delle donne di famiglia comunque riuscire a mantenere un presidio permanente 24 ore su 24, ma loro ce l'hanno fatta appunto unendosi e non fermandosi esclusivamente ad un livello vertenziale. Questo sicuramente è un esempio per noi di cosa vuol dire fare una lotta all'interno del proprio posto di lavoro. La prossima settimana speriamo insomma di sentire Marzia nuovamente ai microfoni di Radio Blackout per farci aggiornare su come la loro vicenda, la loro lotta sta proseguendo. puntata, non siamo riuscite appunto a dare più di qualche approfondimento sulle giornate dell'8 marzo per tutte le altre dirette interessanti che si sono appunto registrate o che sono avvenute durante la giornata dell'8 marzo qua in radio a cura del collettivo Mederi. Mandiamo comunque al sito della radio in cui sono state appunto registrate diverse dirette, alcune importanti come per esempio quella con Geraldina Colotti, una riflessione sulla morte di Chavez registrata durante la trasmissione dei conflitti globali, la potete trovare appunto sul sito della radio, così come anche una diretta con una compagna palestinese che appunto spiega un po' come si è dato l'8 marzo invece in Palestina. Sul sito della radio trovate un post che si chiama 8 marzo 2013 non stop radiofonica, in cui potete trovare tutti gli approfondimenti che sono stati curati sia da Medea che dalle compagne di Radio Onda Rossa. Insomma, quindi si tratta di un 8 marzo davvero indagato da tutti gli angoli del mondo, quindi si passa dalla Val di Susa all'India, alla Palestina, all'Egitto, e insomma un programma veramente molto completo in cui si parla anche della storia dell'8 marzo e non solo. Davvero trovate tutte le dirette sul sito, rimandiamo quindi al sito di Radio Blackout, www.radioblackout.org. Come riprendendo quello che diceva Camilla, invitiamo ad ascoltare tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici la diretta di approfondimento che è stata registrata durante la trasmissione Conflitti Globali da Gianluca, uno dei redattori della radio, con Geraldina Colotti, diretta in cui si parla della morte di Chavez e si parla di come questa è stata trattata e affrontata nei media, e stiamo facendo alcune considerazioni su come è stata anche accolta dai politici, da un certo ambiente di sinistra istituzionale, ma non solo. Secondo noi sviscera davvero molte questioni, per cui anche per questa rimandiamo al sito della radio oppure al portale di informazione antagonista www.infoout.org. I'll get through somehow. 19.59, quindi appunto noi di Interferenze vi salutiamo e vi lasciamo a una nuova puntata di Animal Radio, sempre qui sulle libere frequenze di Radio Blackout. Restate incollati, ci vediamo domenica prossima. Buon ascolto. Oh,